versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino vi saluta questo giovedì, venerdì 26 settembre, verso il fine settimana. Siamo in diretta alle 16:36:40 secondi, qui dagli studi Radio 24 di Milano. L'indirizzo è la versione di Oscar, @radio24.it. Oggi ero molto tentato di tornare su Napoli, perché proprio due giorni fa abbiamo ospitato la proposta del Comune di Napoli, abbiamo sentito l'assessore allo sviluppo, dei 3 anni di tasse da non pagare per gli imprenditori, i commercianti che dichiarano il pizzo. Poi avete visto cosa è successo a Napoli, la condanna in primo grado al sindaco De Magistris, ex PM dell'indagine Why Not, per aver condotto l'indagine acquisendo tabulati anche di parlamentari, venendo meno alle disposizioni in materia, che prevedono delle procedure che lui non ha seguito. Poi mi sono frenato, perché francamente non mi va più di fare trasmissioni inseguendo vicende italiane che per me si commentano da sole, perché quando poi un ex magistrato che fa politica dice la condanna di primo grado, dopo aver detto per tanti anni che i politici condannati si devono fare da parte, e io sono d'accordo a dire la verità, dice che invece si devono dimettere i giudici, ecco, vi dico solo che un quarto d'ora fa l'Associazione Nazionale dei Magistrati ha detto che le sue parole sono intollerabili. Non voglio aggiungere commenti, per me è una vicenda che si commenta da sola. Dopodiché volevo fare un'altra trasmissione invece sul fatto che dopo 9 anni di tira e molla la centrale di Porto Tolle, che è una delle più grandi italiane, non è una vecchia centrale, è una centrale che risale agli anni 80, con un mix di olio combustibile misto per la sua alimentazione di 2700 megawatt, cioè una roba che fa da sola il 5-6% dell'intero fabbisogno elettrico italiano. Dopo 9 anni di tira e molla, di sì e no, ambientalisti, autorizzazioni, via, sì, impugnative con TAR, Consiglio di Stato, l'Enel ha buttato la spugna. Niente più centrale che avrebbe avuto convertita un abbattimento dell'80% delle emissioni, si chiude la centrale. Ecco, a me queste cose qui mi danno l'idea di un paese che si deindustrializza inseguendo le sue follie di impugnative amministrative e di legittime anche opinioni contrarie di ambientalisti, quello che volete voi. Benissimo, non ce l'avremo con l'80% delle emissioni che ha avuto per decenni in meno, e non ce l'avremo per niente, siamo tutti più felici, viva la deindustrializzazione. Ma anche questo ho deciso di non farlo. Invece c'è un tema in vista della legge di stabilità che riguarda un pezzo fondamentale del mondo del lavoro in cui non si parla in queste settimane in vista del Job Act, che è tutto sull'articolo 18, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e così via. Gli autonomi, come sapete, che mi stanno molto a cuore e che secondo me il sindacato sbaglia a non prendere in considerazione, non li rappresenta, il sindacato non rappresenta né i 5 milioni e mezzo di autonomi, artigiani, commercianti, professionisti, non rappresenta i milioni che sono dipendenti sì ma sotto i 15 dipendenti, non rappresenta i milioni che sono precari con le varie forme discontinue di contratti a tempo. E detto tutto questo, in vista della legge di stabilità qualcuno invece avanza qualche modesta idea anche per gli autonomi, che naturalmente non lo hanno visto il bonus 80 euro sacrosanto per integrare un po' i redditi dei dipendenti sotto la soglia dei 28.000 euro lordi. Però gli altri, gli autonomi, che pure i morsi della crisi li conoscono e come, e non hanno le stesse tutele salariali e contributive se si ammalano che hanno i dipendenti, non li hanno visti. Allora, in vista della legge di stabilità è stata avanzata una proposta dall'interno stesso del governo, e mi è sembrato opportuno dedicare questi minuti oggi chiamando il suo proponente, che è un sottosegretario, il sottosegretario all'economia, appartiene a Scelta Civica come partito, Enrico Zanetti. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, sottosegretario. Grazie a voi per l'invito. Allora, di che si tratta? Spieghiamo in che cosa potrebbe consistere, se il governo le darà retta e quindi entrerà a far parte della legge di stabilità, questo intervento per dare un po' di ossigeno agli autonomi. Sostanzialmente si tratta di ampliare e potenziare un regime agevolato che già attualmente esiste proprio per i piccoli lavoratori autonomi, parliamo per quelli che non hanno una struttura, non hanno dipendenti, e che attualmente prevede una tassazione agevolata al 5% per i fatturati fino a 30.000 euro, però con delle limitazioni ulteriori, nel senso che se si hanno più di 35 anni decorsi 5 anni di utilizzazione del regime agevolato si perde il diritto ad averlo, anche se si continua ad avere fatturati bassi. La nostra proposta, la proposta che ha formulato Scelta Civica, che chiaramente io insieme al governo sto portando avanti, ho già posto sul tavolo l'altro giorno alla riunione vertice insieme al ministro Padoan e agli altri sottosegretari, la proposta è quella sostanzialmente di, da un intervento minimo, di rendere fruibile questo regime a tutti coloro i quali non superano i 30.000 euro senza limiti temporali di sorta, ha anche magari un aumento, un leggero ritocco di quella soglia, farla salire possibilmente fino a 50.000 euro. Questi interventi sono finanziariamente, a nostro avviso, sostenibili nell'ambito delle coperture che potranno essere la spending review e devono essere collocati tra gli interventi prioritari, anche perché dopo che è stato fatto il giusto intervento degli 80 euro sui lavoratori dipendenti ed ora andiamo a stabilizzarlo, un segnale anche per i più precari tra i precari, cioè i piccoli lavoratori autonomi, è ora è tempo per noi di darlo. Allora, rispetto al regime attuale, che ripetiamo è dura 5 anni questo bonus del pagare solo il 5%, quindi l'IRPEF, se però si ha entro i 35 anni e sotto la soglia dei 30.000 euro di reddito l'anno, le modifiche concretamente quali nuove fasce potrebbero interessare? Si tratta di un intervento che può interessare dal centinaio di migliaia di persone, nella sua versione minima c'è solo un allungamento temporale rendendolo a tempo indeterminato, perché anche si parla tanto di tempi determinati e indeterminati relativamente ai dipendenti, ma è vero anche che per gli autonomi oggi abbiamo un'agevolazione a tempo determinato che sarebbe opportuno rendere a tempo indeterminato, quindi in questo caso l'intervento minimo un centinaio di migliaia di soggetti, stando alle macrostime. Se poi riusciamo anche ad alzare un po' la soglia di fatturato, la fascia interessata potrebbe arrivare più che a raddoppiarsi. E stiamo parlando chiaramente di un intervento che darebbe una certa mano, un certo ossigeno a una fascia comunque importante del nostro tessuto produttivo, che viene spesso, come ben ricordava anche lei prima, dimenticata e stritolata nei dibattiti tra 80 euro e Job Act, che sono fondamentali, ci mancherebbe, ma che non ci possono far dimenticare questi piccoli lavoratori autonomi che un giorno possibilmente diventeranno grandi nell'interesse loro e anche di tutto il paese. Ma si riuscirebbe secondo lei ad arrivare dai 30.000 euro attuali a quanto? 40.000? Un po' meno, un po' più? Che per ora abbiamo proposto 50.000, con l'innalzamento a 50.000 il costo in termini di coperture necessarie arriva a circa 500 milioni l'anno. Noi, ripeto, riteniamo che possano essere coperti nell'ambito degli interventi di riduzione fiscale, perché ce ne sono anche altri importanti nell'agenda del governo, coperti con la spending review, però siamo talmente convinti dell'opportunità che questi interventi debbano essere fatti che nella denegata ipotesi in cui con la spending review non li si possa coprire, perché copriamo altre cose ancora nell'ambito del dibattito interno al governo, piuttosto che rinunciarvi noi diciamo facciamo un piccolo ritocco all'imposta sulle successioni, si tratterebbe di un piccolo ritocco assolutamente, perché piuttosto che rinunciarvi crediamo che sia importante agevolare chi intende prima che chi eredita, onestamente. Allora, autonomi che siete in ascolto, diteci come la pensate, come l'avete preso degli 80 euro, se vi aspettate qualcosa o non ve lo aspettate. Nel frattempo io leggo in diretta anche al sottosegretario Enrico Zanetti una dichiarazione battuta dalle agenzie e il presidente del consiglio che parla, Matteo Renzi, in una conferenza stampa sul decreto. Ecco, e comunque ribadisce Renzi che il governo è in grado di garantire la conferma del bonus di 80 euro in busta paga per chi lo ha già ottenuto, ma non l'estensione. Dice testualmente è in grado di garantire, non ha detto che esclude l'estensione. In questi giorni anche il ministro Padoan ha più volte ripetuto in interviste Repubblica, Avvenire e così via, che i numeri precisi sono all'attenzione del governo e le scelte verranno fatte, diciamo, entro il 15 di ottobre, quando la nota di aggiornamento che nei prossimi giorni, entro fine settembre, intanto va al Parlamento e che darà gli orientamenti generali della legge di stabilità, ma la legge di stabilità la dovremmo apprendere, mi corregga stasera Zanetti se sbaglio, il 15 ottobre, è così? Sì, i tempi sono sostanzialmente questi, confermo ovviamente quello che dice il ministro, per l'appunto è quello che diciamo anche noi, cioè non ne si esclude che di riuscire a fare anche questo intervento piccolo, aggiuntivo, piccolo ma importante con la spending non siamo in grado di garantirlo. La nostra posizione, in questo caso come Scelta Civica, è che ove questo non fosse possibile, l'intervento vada fatto comunque ricorrendo a quel punto a qualche intervento fiscale, certo. Con le modalità che dicevamo prima. Allora, 60 secondi di informazione stradale e poi torniamo a parlare di autonomi, quello che si aspettano, quello che hanno visto e quello che non hanno visto. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornate in diretta a 16:47, primi 36 secondi, parliamo di agevolazioni, forse, speriamo, ma comunque proposte al governo, dall'interno del governo, anche per gli autonomi, sin cui mancate rispetto al bonus 80 euro ai dipendenti sotto una certa soglia di reddito, in vista della legge di stabilità. Nel frattempo devo informarvi che il più degli sms che sono venuti al nostro 349-238-6666 relativi al caso dei Magistris Napoli sono a favore del sindaco napoletano, sono a favore del fatto che non si debba dimettere e molto critici nei confronti della sua condanna, molto critici nei confronti del fatto che per l'acquisizione di tabulati dei parlamentari si debbano seguire procedure particolari, però quelle sono disposte dalla legge, e quindi ne do atto, cioè gli ascoltatori, ovviamente la radio esiste perché ci sono degli ascoltatori, la maggior parte di chi ci ha scritto per il momento sta con De Magistris. Sentiamo intanto sul tema invece della trasmissione di oggi Ivano, che ci chiama da Modena. Prego Ivano. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io ho tre brevissime osservazioni che sono queste. Allora, su quello che lei ha detto sui sindacati, aggiungo questa cosa, le chiederei un'opinione a lei anche al sottosegretario. Secondo me c'è proprio una lettura sbagliata a livello della realtà sociale di questo paese, ovvero lavoratori autonomi piccoli e operai, lavoratori dipendenti, dovrebbero essere considerati come qualcosa di molto più affine e non come qualcosa di lontano per formazione ideologica e per formazione culturale o sociale. Sono categorie di persone che si assomigliano nel reddito e spesso anche nelle condizioni di vita generali. Aggiungo il secondo punto, la seconda considerazione. Gli 80 euro che hanno fatto ridere, alcuni hanno fatto arrabbiare, sono la strada giusta, nel senso che noi abbiamo una crisi colossale del mercato interno. Io sono un lavoratore ambulante, lavoro al mercato, quindi vendo scarpe e so cosa vuol dire trovarsi di fronte a persone che non possono permettersi di comprare delle calzature italiane, ma devono comprare prodotti di basso costo importanti perché non hanno perché i soldi non hanno in tasca. Potere d'acquisto. Quindi, certo. Lei dice buono. 80 euro magari saranno serviti a colmare i debiti, esatto, a ricostituire il reddito più che a trasferirsi in consumi, però lei dice esatto. Gente a basso reddito aveva perso tanto di quel reddito che è meglio dargli piuttosto che no. La terza cosa rapida? Terza cosa rapidissima sulla proposta del sottosegretario. Allora, consideriamo che se abbiamo delle risorse utilizziamole per rigalluzzire il mercato interno. La mia banale proposta è: a molti lavoratori autonomi serve soprattutto deburocratizzare, limitare le spese che vengono da altre questioni. Quindi banalmente troviamo qualche strada per dire a Ivano, a Gianni, a Franco: dacci in termini fiscali quello che puoi, qualcosa anche di più. Però elevaci dal groppone un bel po' di adempimenti, insomma, per così. Tipo un sacco di spese di commercialista e altre cose. Ivano, però. Chiarissimo, sentiamo Stefano da Parma, qui devo purtroppo chiedere di essere un po' più rapido. Stefano. Cercherò di essere rapidissimo, Giannino, la ringrazio della chiamata, le volevo solo dire che sono un autonomo. Sono già 27-28 anni che sono autonomo, ma questa attività nuova che ho intrapreso 4 anni fa credo che non venga contemplata in questo bonus fiscale, chiamiamolo così, proposto dal sottosegretario. E intendo anche dire che gli 80 euro dati a chi già poteva mantenere la famiglia, secondo me è stato anche un leggero spreco, poteva essere dato tranquillamente a chi invece non ha un lavoro, che sicuramente l'avrebbe goduto al quindi meglio, lei dice insomma. La platea degli esclusi, dagli incapienti e così via, che non hanno avuto gli 80, piuttosto di chi comunque, sia pur basso, ha un reddito e un lavoro dipendente, forse era preferibile, se era pure redistribuzione. Giuseppe da Bari, che dice lei? Buonasera, dunque io vorrei, sono un lavoratore dipendente, sono un dirigente del privato, vorrei sapere cosa ne pensa della proposta di qualche anno fa, ma credo sia poi un modello mutuato dalla Germania, ovvero la contribuzione unica per tutti i lavoratori autonomi e dipendenti, con un'aliquota più bravo, bassa, bravo, che metta sullo stesso piano la dignità del lavoro, quindi fattore autonomo di quello dipendente, con aliquote semmai a carico del lavoratore dell'azienda diverse nel caso del lavoratore. Allora Giuseppe, ma no, è chiaro a chi segue queste cose che cosa sta dicendo. Io le rispondo brevissimamente perché preferisco che poi a tutti i nostri ascoltatori fino a questo momento risponda il sottosegretario. Giuseppe, io dico solo questo, che un paese nel quale chi è iscritto al fondo speciale per capirci, e quindi stiamo parlando di autonomi discontinui che hanno gravissimi problemi di continuità contributiva e così via, paghi un'aliquota che è più elevata di quella del lavoro dipendente e l'attivo del fondo speciale contribuisca a ripianare le perdite di fondi che pagano pensioni retributive, per carità maturate secondo le leggi dell'epoca, ma comunque che gli iscritti al fondo speciale si sogneranno, non avranno mai, questa è una cosa per me inaccettabile. Quindi per me l'omologazione delle aliquote a fronte magari di una ridefinizione del contributo impresa per i dipendenti, perché è ovvio che ci sono questioni diverse sul rischio autoassunto, sul lavoro autonomo, che noi in Italia penalizziamo invece che tutelare, questa secondo me sarebbe una strada di civiltà fiscale e contributiva. Però purtroppo per questo ci sarebbe bisogno di una riforma organica, sia fiscale che contributiva, e qui siamo alle prese invece con leggi di stabilità che devono come al solito far quadrare i numeri. Però mi interessa, Zanetti, se ha sentito tutti i nostri ascoltatori, tentiamo di rispondere ad alcune delle osservazioni che le sono state avanzate. Ma guardi, per quanto riguarda l'aspetto previdenziale, io credo che il tema non sia quello di far pagare ad alcuni i disavanzi di altri da un punto di vista di divisione categoriale. Questo problema va risolto su un piano più generazionale e non è un mistero che noi di Scelta Civica siamo assolutamente a favore di interventi di contribuzione, di solidarietà sulle pensioni non calcolate con retributivo di importo elevato, nella misura in cui dietro a quelle pensioni retributive non ci siano dei corrispondenti contributi che le abbiano, che le coprano e le giustificano. Quindi non colpire indiscriminatamente le pensioni elevate, perché se sono state adeguatamente sostenute da contribuzioni sono guadagnate, certo, meritate. Certo. Quando c'è una sproporzione elevata, perfetto, sono d'accordo con lei su questo. Per quello è lo strumento tra cui andare a richiamare parte del deficit, altrimenti viene scaricato. Per il resto? No, per il resto il lavoro che questo governo sta facendo, anche rispetto al Jobs Act, veniva detto, i precari sono, gli autonomi precari sono molto più vicini ai dipendenti di quanto sembra. Il lavoro che stiamo cercando di fare è proprio quello, avvicinare tutti in un contesto in cui oggi viceversa ci sono tanti steccati, tanti steccati e anche tanti, io dico, steccati che guardano solo da una parte. Allora io ringrazio il sottosegretario Zanetti, continuate con Radio 24, appuntamento con me a lunedì. La versione di Oscar. This is the end.